commenti, buone letture e qualche mail d'autore. Appuntamento consueto del martedì con il calcio internazionale. Comincerei dagli striscioni allo stadio di Firenze. Apparsi in nottata contro tutto e contro tutti, ma sempre con voi ragazzi. Una scritta in viola attaccata stanotte ai cancelli dello stadio Artemio Franchi, ma seguito stamane da scritte ben più grevi. Leggo da una notizia dell'ANSA: sia contro il presidente del Consiglio Berlusconi che contro il ministro degli interni Maroni, il presidente dell'AIA Gussoni e il designatore arbitrale Collina. Scritte apparse sui muri di alcuni palazzi intorno allo stadio Artemio Franchi, dove tra l'altro domani sera si gioca Fiorentina-Napoli. Scritte che hanno un chiaro riferimento alle polemiche per gli arbitraggi, ripeto, che chiamano in causa addirittura il capo del governo, oltre che il ministro degli interni e le autorità arbitrali. Scritte che sono già state cancellate, ma questa più o meno è la situazione a Firenze dopo il proclama di Andrea Della Valle, presidente della Fiorentina, di sabato sera. Notizia che arriva da Piano Gentile, che è appena stata battuta dalle agenzie, e nemmeno questa volta è stato convocato Balotelli per Palermo, per Catania Inter, nonostante l'indisponibilità di Adriano seguita alla squalifica da prova TV per 3 giornate. L'unica cosa, ha detto Beppe Baresi, che essendo squalificato Mourinho ha preso il suo posto anche in conferenza stampa, l'unica cosa, dice Baresi, che la società mi ha autorizzato a dire a proposito di Balotelli è che non è sul mercato e non sarà messo sul mercato, è dell'Inter e resta dell'Inter, ma non è stato inserito nell'elenco dei convocati, anche se si sa che i motivi dell'esclusione sono disciplinari, come la società ha precisato. C'è poi la vicenda Beckham. Pare che a Los Angeles non abbiano preso particolarmente bene il tentativo che il Milan sta facendo di forzare la situazione per convincere Beckham a restare al Milan anche dopo l'8 di marzo. Questa è la precisazione, la lunga dichiarazione rilasciata da poco fa da Galliani al suo arrivo in Lega. Parleremo con i rappresentanti di Beckham, loro parleranno con i Galaxy se riterranno il caso di farlo. Insomma, diciamo che il giocatore e i suoi rappresentanti sanno di questa disponibilità del Milan di acquisirlo a titolo definitivo. Sta ai legittimi proprietari a decidere. Certo, al terzo anno si può andare via con la clausola FIFA, ma è un qualche cosa che io considero una cosa che non esiste, e quindi il Milan, come quasi tutti i grandi club, hanno un patto d'onore per cui nessuno ricorre alla clausola rescissoria, un giocatore va via e va in un altro club, perché se cominciasse uno diventerebbe la guerra nucleare, quindi se anche si hanno le bombe atomiche non si possono usare. Diciamo così, se il giocatore fosse libero sicuramente lo acquisiremmo, ma non lo è. Ma certo, se si liberasse il Milan lo porterebbe, credo con anche gioia da parte di Beckham, perché Beckham si trova bene, perché è ritornato a giocare in un grandissimo club. D'altra parte la sua vita è stata la vita di un grande calciatore, perché ha giocato in Europa solo in 3 club, e questi 3 club, guarda un po', sono il Manchester United, il Real Madrid e il Milan, quindi gli è andata bene la vita a David. Questa è la posizione di Galliani e del Milan a proposito della vicenda Beckham. C'è un'altra precisazione che tra poco ascoltiamo, ed è di Baldini, ex direttore sportivo della Roma, attualmente braccio destro di Capello, manageriale nella gestione della nazionale d'Inghilterra. La premessa è che domenica scorsa a Bologna, l'altro ieri a Bologna, ad osservare Beckham c'era in tribuna Italo Galbiati, al secondo braccio destro di Capello, stavolta ramo tecnico, no? per i giocatori di pertinenza e di interesse per la sua nazionale. Allora, poiché Beckham aveva espresso curiosità per sapere che valutazione Galbiati aveva dato della sua prova, questa è la risposta di Baldini ai microfoni di Sky. Sì, in realtà mi ha mandato un messaggio perché era molto contento e io gli avevo detto che ci sarebbe stato Galbiati a vederlo ieri, quindi insomma mi chiedeva cosa aveva detto Galbiati. Io gli ho risposto: intanto goditi il momento, il resto sono affari miei. Veniamo a Carlo Ancelotti. Ha rilasciato qualche intervista in questi giorni, anche perché ha tagliato un traguardo particolarmente significativo, che è quello delle 400 presenze sulla panchina del Milan. Ormai è lanciato l'inseguimento del Paron di Nereo Rocco, che ne mise in fila durante la sua pluripermanenza al Milan, perché non fu una soltanto, ma venne in due riprese, anzi in tre riprese addirittura, contando insomma l'epoca poi del tramonto. Rocco arrivò a 459 panchine rossonere. Ancelotti ha tagliato già il traguardo delle 400 e non fa mistero di voler puntare assolutamente a superare questo titolo di Rocco. Ha già dato appuntamento per le 460, ipotecando dunque non tanto la conclusione di questa stagione, e ci mancherebbe, quanto una prosecuzione anche nel futuro. Sulle vicende dell'ultima giornata, in particolare sulle intemperanze di Mourinho, Ancelotti, che in genere è sempre stato solidale con i colleghi, stavolta, mi pare di capire da questo frammento, ha preso le distanze. Sentiamo questo suo intervento. Non penso che l'arbitro Celi avesse paura nella partita di ieri, e credo che è stata da parte di Mourinho una mancanza di rispetto nei confronti di un arbitro, quindi la decisione di mandarlo fuori è stata giusta secondo me. E se l'arbitro è sotto pressione, dobbiamo essere noi perlomeno a togliergli una parte, sicuramente la pressione gli arriva anche da determinati comportamenti, mi ci metto di mezzo anch'io, perché tante volte dalla panchina certamente non diamo tranquillità e serenità all'arbitro. Sono arrivate molte mail a proposito dell'atteggiamento di Mourinho da un punto di vista disciplinare, e a proposito di qualche sua scelta tecnica e di un comportamento in generale, insomma, diciamo che è salito di livello dal punto di vista nervoso negli ultimi giorni, nell'ultima settimana. Ve ne leggerò alcune poi, e visto che stanno cominciando le prenotazioni degli ascoltatori per intervenire, chiedo a qualche murignano di provata fede di intervenire per bilanciare queste mail, che sono invece all'unanimità di segno contrario, poi con varie motivazioni. Prima di dare spazio, dicevo, ai vostri interventi, e in attesa poi di aprire il capitolo del calcio internazionale con Fabio Tavelli tra poco, volevo ricordare che statisticamente Adriano è abbonato alla prova televisiva ed è assolutamente il detentore del record in materia attualmente, in materia di squalifica da prova TV, perché è arrivato con questa a 7 giornate. Ne prese 2 nel febbraio 2006 per un colpo a Grandoni durante Livorno Inter. L'arbitro Bertini, a proposito, Bertini non se ne accorse, combinazione, il giudice poi rivide le immagini e squalificò per 2 turni. La curiosità è che la disciplinare accolse il ricorso d'urgenza dell'Inter e quindi annullò la squalifica, ma poi il procuratore federale Palazzi fece ricorso e la CAF ridiede le 2 giornate di squalifica ad Adriano. Poi quello stesso anno ci fu un Inter-Roma in cui Adriano prese 2 giornate di squalifica per simulazione. Trefoloni concesse regolarmente il rigore, e anche questo credo che non sia particolarmente sorprendente, ma poi il giudice sportivo, esaminando i filmati, si accorse che quella di Adriano era stata una palese simulazione. Quindi 2 più 2 più 3 adesso, 7 per il colpo rifilato al difensore della Sampdoria l'altra sera, Gastaldello. Tocca a Marco da Torino, buongiorno. Sì, buongiorno. Ma a parte la metafora di Galliani, secondo me, scusate la sensibilità, sembra sempre fuori dalle righe, cioè quello di richiamarsi alle bombe atomiche parlando di calcio sembra una cosa un po' così discutibile. Sì, non è stata un'immagine felicissima, però insomma... carità, era un inciso, ma sì. Detto questo, io ho telefonato perché dal mio punto di vista è da stigmatizzare l'atteggiamento del presidente Andrea Della Valle della Fiorentina, perché quello che è successo sabato sera è così evidente, è evidente che la Fiorentina è stata danneggiata, ma non è mai così elevato il danno da giustificare parole che poi innescano inevitabilmente reazioni come quelle che lei ha raccontato. Io dico che la Fiorentina è stata sostanzialmente graziata dalla vicenda chiamata Calciopoli, le ragioni ancora non le so, mi sembrava di aver capito che le responsabilità di quella società fossero piuttosto pesanti, e invece è andato tutto in un certo modo. Ma tutto in un certo modo, la Fiorentina fu penalizzata pesantemente per quella vicenda, quindi che sia stata graziata, questo è inesatto da parte sua ed è anche un falso storico. Resterei all'attualità, perché è vero comunque che quando si prendono certe posizioni poi ci si espone, no, a questo tipo di considerazioni. Nel suo caso sinceramente mi sembra inesatta. Ho qua una mail di questi giorni. Claudio Cazzaniga scrive: sono Claudio da Bergamo, Della Valle dice di aver paura di essere tornato ai tempi cupi, ma in quei tempi cupi non era stato condannato anche lui, si domanda, e questa è vera invece. Quindi lasciando stare il passato, restiamo al presente. Io credo che lo sfogo della Fiorentina di sabato sera fosse perfettamente legittimo, il malumore e una parte di sfogo, dipende poi sempre dai toni, perché era la terza partita consecutiva in cui la Fiorentina veniva danneggiata da decisioni, da errori arbitrali. Credo che Della Valle in quell'occasione sia andato nella forma, non tanto nella sostanza, ma nella forma, si è andato decisamente sopra le righe. Chi semina vento raccoglie tempesta, e l'ho appena raccontato in base alle notizie ANSA che arrivano da Firenze, sperando che poi da qui a domani sera e poi andare avanti tutto si calmi. Da Roma ha chiamato Antonio, buongiorno. Signor Garantini, buongiorno. A lei. Senta, io sono un tifoso del Torino di Roma, sì, ma non voglio parlare del Torino, non ne vale la pena. Volevo intervenire su due cose, su Calciopoli e su un quotidiano sportivo, Tutto Sport. Su Calciopoli l'uscita di Moggi dell'ambito calcistico, ma non dovevano finire i favoritismi di certe squadre? E su Tutto Sport come fa un quotidiano a mettere mediamente dalle 8 alle 10 pagine al giorno di una squadra e pochissimo di tutto il resto del calcio italiano? La ringrazio, aspetto per telefono. Sì Antonio, aspetti e speri, no? Nel senso che le scelte editoriali non mi permetto di discuterle, le valuta il lettore e decide se gli stanno bene o meno. Poi c'è un discorso magari di prestigio e a quello si può rinunciare, mi pare di capire, e non soltanto nel caso di Tutto Sport per ragioni editoriali. Basti vedere che cosa mandano in onda le TV private, che una volta erano quelle piccole, ormai sono anche i network invece, da un punto di vista qualitativo. L'altra domanda è impropria, cioè è stato stroncato un sistema di corruzione di cui esistono prove ed è stato stroncato dalla giustizia sportiva con un verdetto che non è più appellabile, che è definitivo e che nulla ha a che vedere con un processo che invece ancora deve cominciare da un punto di vista strettamente penale. Tutto questo non poteva eliminare la fallibilità umana, sicché gli arbitri continuano a sbagliare, poi a seconda dei momenti sbagliano in maniera più o meno vistosa, più o meno palese, più o meno strana. Che esista una compiacenza nei confronti delle squadre più forti non è certamente una novità di oggi, non era nemmeno una novità di quei tempi, ma tantomeno una novità di prima ancora, nel senso che le squadre più forti hanno sempre goduto di un trattamento particolare. C'è stato un periodo in cui invece era stato elevato al sistema con un metodo di corruzione che è stato, ripeto, ampiamente provato. Daniele, provincia di Ferrara, buongiorno. Sì, buongiorno Granfini, l'ascolto sempre volentieri per radio. Volevo dire una cosa a proposito di qualche giorno fa, quando lei ha ospitato così amabilmente Galeone, no? Sì. È stato davvero molto piacevole, però secondo me l'ironia verso Mourinho è stata un po' esagerata, se vogliamo, perché se andiamo a vedere gli ultimi 6 campionati, Mourinho ha vinto 4 campionati, di questi 6 uno è andato via dal Chelsea e uno è ancora in corso. Credo che per quanto riguarda il calcio bisogna tenersi i numeri. E se invece parliamo di Galeone, per carità, è una persona anche molto simpatica, però se vogliamo è stato più esonerato lui di Mayfredi. Cioè bisogna dare tutto un giusto valore, mi sembra, no? Poi che sia una persona piacevole, questo è indubbio. Sì, ecco, sì. Volevo un suo parere, ecco, perché i numeri nel calcio credo che siano la base di tutto. Perché tutte le opinioni sono così, un po', per quanto opinioni anche criticabili o no, ma i numeri rimangono, ecco, tutto qua. Sì, i numeri. Per radio. Daniele, i numeri anche sulla base della caratura, nel senso che se si allena l'Udinese e il Pescara è un po' difficile che si riescano a vincere dei campionati o tantomeno delle Coppe dei Campioni. Se si allenano il Porto levandosi il cappello e poi il Chelsea e poi si arriva all'Inter, credo che sia più facile mettere in fila dei trofei. Dopodiché, il giorno che ci toglieremo il gusto di ragionare su quelli che stanno più in alto di noi, beh, credo che a quel punto la libertà di espressione avrebbe, non che oggi stia benissimo di salute, ma quel giorno credo che potremo ricoverarla senza molte speranze di guarigione. E abbiamo chiuso, sì, questa prima parte di programma. Tra poco arriva il calcio internazionale con altri argomenti da affrontare. Oh, questa è anche una vigilia di campionato, perché sapete che domani sera si torna in campo, e si torna in campo con partite di primissimo livello. Sto pensando a Fiorentina-Napoli, per esempio, a Milan-Genoa, Udinese-Juventus, a Catania-Inter. Vigilia significa che stanno arrivando notizie, per l'appunto, dai rispettivi ritiri. La Lazio stamattina ha subito una contestazione da parte dei tifosi. Leggo che Rossi sta pensando a un avvicendamento in porta tra Carriso e Muslera. Qui è appena arrivato un aggiornamento sulla vigilia juventina. Non ci sarà turnover, dice Ranieri, è troppo importante provare a vincere a Udine. La Juventus ritrova due recuperi importanti come Iaquinta e Trezeguet, che va in panchina per la prima volta dopo l'infortunio. Ancora in dubbio Chiellini, niente da fare per Camolanesi, rientrano Sissoko e Molinaro, reduci da squalifica. Bentornato Fabio Tavelli. Grazie Gigi, buongiorno a tutti. Buongiorno. Dunque, sia per competenza estera che per competenza territoriale, cioè bresciana, insomma, diciamo che ha fatto molto rumore il trasferimento di un ragazzo di nome Savio dal Brescia al West Ham. È successo ieri. È certamente un giocatore di grandi qualità e di grandi potenzialità in prospettiva, ma 7 milioni e mezzo di sterline, che tradotti sono 8 milioni e mezzo di euro abbondanti, hanno certamente fatto sensazione. Allora ci spieghi tu chi ha comprato e chi ha venduto da un punto di vista bresciano, visto che si tratta di un giocatore bresciano? Sì, chi ha comprato, cioè certamente chi ha venduto è il Brescia di Gino Corioni, chi ha comprato è Gianluca Nani, che è l'ex direttore sportivo del Brescia e attualmente general manager del West Ham. C'è un filo nemmeno troppo sottile tra le due società, nel senso che poi il mercato del Brescia lo fanno due collaboratori di Gianluca Nani, quindi diciamo che è stata una trattativa molto facile in realtà. Savion Sereco interessava molto anche alcune società italiane di Serie A, alcune anche molto importanti, la Juventus, il Napoli e quant'altre, non disposte però a pagare quella cifra, perché comunque Savion Sereco è un ragazzo che la Serie A ancora non l'ha vista, e quindi è evidente che inserirlo in un tessuto di altissimo livello già da subito poteva essere un rischio, e quindi queste società non erano disposte a scommettere così tanto. Credo che questo sia un ragazzo fatto e costruito per il campionato inglese, nel senso che ha doti di corsa non comuni, un fisico ancora forse nell'ultima fase dello sviluppo, è uno dei pochi giocatori che punta all'avversario e cerca di dribblarlo, e può farlo sia in velocità che nel dribbling stretto, quindi è un ragazzo di grandi potenzialità, al punto che Gianluca Nani e i suoi collaboratori lo conoscono praticamente da quando era un bambino, e quindi non mi stupisce che il West Ham ci si sia buttato sopra con una corsia preferenziale, proprio perché Nani lo conosce per essere stato lui, insieme al suo collaboratore Maurizio Micheli, ad andarlo a prendere. La storia di Savion Sereco è una storia curiosa, se vuoi anche molto bella, cioè di una famiglia ugandese che migra in Germania, si integra in Germania, e nel momento in cui questo ragazzo fa vedere di essere bravo e viene scoperto da questi osservatori, da questo punto eccellente rete di osservatori, perché andarlo a pescare non è stato facile, la famiglia, prima di concedere il via libera al Brescia per fargli firmare una sorta di accordo e per dargli la possibilità di andare a Brescia ad allenarsi, è andata con il ragazzo direttamente in Uganda da quello che è considerato il capo tribù ugandese della tribù alla quale etnicamente si riconoscono i genitori di Savio, per chiedere a lui il benestare e il permesso affinché questo ragazzo cambiasse di nuovo nazione e andasse a giocare a calcio in Italia. saggiamente il capotribù, appunto da capotribù e quindi da saggio, ha dato il consiglio giusto, cioè di farlo giocare, di provare la chance di diventare un professionista e anche di risolvere qualche problemino economico della famiglia. Quindi diciamo che c'è parecchio dietro la storia di questo ragazzo. È per questo che è una storia interessante, e poi con questa connotazione, questa forte da altri tempi, sì, eh. Sì, da altri tempi da una parte, e con però anche radici bresciane, londinesi, no? E quindi... sì, è chiaro che non è un conflitto di interessi, no. Mettiamola così, no, è una convergenza di ecco interessi. non è un conflitto di interessi, mi sembra una formula davvero ministro degli esteri che ha frequentato la diplomazia. Nel senso che io considero la parola conflitto sbagliata, secondo me, certo. Sono interessi che convergono, certo, certo. Il conflitto è quando sono divergenti, secondo me sono convergenti, nel senso che Gianluca Nani è di fatto ancora il punto di incrocio del mercato del Brescia, e quindi è abbastanza chiaro che qualcuno, come tu mi insegni, ci avrà avuto la sua bella convenienza. Mettiamola così, uscendo dalla farina, certo. Per un attimo, certo. A fumare una sigaretta, allora, peraltro questo... non fumo. Questo ragazzo, sì, esatto, così mi risulta. Questo ragazzo costerà la metà circa di quello che Arshavin costerà all'Arsenal. Arshavin è atteso in settimana, questa è la prossima robusta mossa di mercato che riguarda la Premier. Se ci spostiamo, poi torniamo in Inghilterra. Ma sì, ce n'è una forte anche su Keane, Gigi. Può essere che Robbie Keane lasci il Liverpool, nel senso che... non con la virulenza di Panucci, non con la consueta virulenza di Panucci, ma Robbie Keane non ha accettato la panchina domenica nel derby di Anfield contro l'Everton e non l'ha mandato a dire a Rafa Benitez. È possibile che il Tottenham pensi di riprenderselo, possibile, non probabilissimo, ma possibile che Robbie Keane possa tornare al Tottenham. Mentre invece da Barcellona si legge che Messi ha detto chiaro e tondo che se per caso se ne dovrà andare da Barcellona sarà solo perché lo cacciano e non certamente perché se ne voglia andare lui. Ha aggiunto: il fatto che sia incedibile mi fa piacere, ma anche Ronaldinho era incedibile. Insomma, ha rilasciato un'intervista direi abbastanza che ha fatto molto discutere e sì. Che ha messo in grande agitazione i tifosi del Barça, perché insomma oggi Leo Messi a 21 anni somiglia sempre ma sempre più da vicino a quell'altro grande argentino non altissimo che giocava qualche anno fa. Ma da questo punto di vista due cose: io non credo fosse vero che, cioè, Ronaldinho è stato incedibile quando ha vinto il pallone d'oro, poi un po' meno, e stiamo parlando di un ragazzo che è ancora nella fase ascendente, stiamo parlando di un ragazzo che parla abbastanza poco e quindi non è ancora abituatissimo forse a misurare le parole. Credo non abbia detto niente di particolarmente scandalizzante per lui e per i tifosi del Barcellona, nel senso che anche Kakà ha detto: io rimarrò sempre al Milan finché i nostri progetti saranno convergenti, no? Finché punteremo entrambi alle stesse cose. È chiaro che se tu chiedi a qualsiasi giocatore ti fa piacere che il Real Madrid pensi a te, ovviamente tutti dicono sì. Da lì a dire mi piacerebbe andare al Real Madrid è un po' diverso. Questo fa parte di un modo abbastanza ormai in voga di prendere le interviste e interpretarle, che fan sì che poi su queste ci si ricambi moltissimo. Io sinceramente penso che Leo Messi abbia anche un debito di riconoscenza nei confronti della società Barcellona, che l'ha curato quando era un bambino, e il Barcellona abbia su di lui un'ipoteca grande come una casa, ma di quelle grandi. Ma non solo, non solo un'ipoteca morale, Fabio, perché il mondo deportivo ha una clausola di rescissione, ecco. Che è mostruosa, cioè neanche lo sceicco stavolta potrebbe arrivarci. No, ma lo sceicco magari ci può anche fare un pensierino, però la clausola rescissoria da pagare a Barcellona per prendere Messi dovrebbe essere di 254 milioni di euro, e cioè 150 di clausola pura, leggo dalla Gazzetta, 24 di IVA, 80 di IRPEF. In questo caso lo Stato spagnolo, il governo Zapatero farebbe festa perché avrebbe un incasso mostruoso. Sì, certo. È ovviamente una battuta, però io credo che nel momento in cui arriva un'offerta del genere a Kakà e poi potrebbe arrivarla a Messi, cioè il denaro non è più, cioè è chiaro che stiamo parlando di denaro a fiumi, però quando, cioè, tu sai benissimo che quando un giocatore vuole andarsene è un giocatore di questo calibro, poi il denaro lo trovano per pagarlo, sì. Trovano formule con sponsor e altri magheggi. Quindi è troppo importante la volontà del giocatore, e quindi nel momento in cui Messi dovesse decidere di andare via da Barcellona, ed è chiaro che nessuno di noi può escluderlo, perché nessuno di noi sa nemmeno quello che succederà domani, figurarsi fra N anni, i soldi a quel punto lì si trovano, però Messi ha detto bene, cioè io non vado via finché non mi cacciano, quindi lui ha confermato di non voler andare via, quindi certo. Per me il discorso è chiuso. Ci resta poco più di un minuto per la Premier, che al pari del nostro campionato avrà un turno infrasettimanale, aperto tra l'altro dal possibile debutto di Culicini nella sua nuova società, sì. il Tottenham, aggiungendo che il Chelsea nel frattempo ha preso Storari dal nostro campionato. Sì, Culicini vive... Io sono contento che lui sia andato al Tottenham, perché lui è un professionista serissimo, si è... cioè a Londra ormai ha messo radici e quindi non ha cambiato nemmeno casa perché è passato dal Chelsea al Tottenham. È un turno interlocutorio quello di Premier League, dopo che nel fine settimana si è giocato in FA Cup. Sono abbastanza curioso di vedere la partita dell'Arsenal contro l'Everton, quella è probabilmente la partita più a rischio per quanto riguarda le pretendenti al titolo. Io comunque l'Arsenal lo metto sempre tra le pretendenti al titolo. Nel borsino in questo momento sembra leggerissimamente in ripresa il Chelsea, due settimane fa sembrava disastroso, sì. Adesso qualcosa meglio. È in grande forma il Manchester United, se dovessero giocare oggi pomeriggio Manchester United e Inter, i rapporti di forza sarebbero molto sbilanciati a favore del Manchester United, per fortuna dell'Inter manca ancora un mese, per sfortuna della Juventus il Chelsea, ripeto, sembra scuotersi un po', ma due settimane fa il Chelsea era da prendere immediatamente. Eh sì, al volo. Diciamo che l'Arsenal rimane abbastanza... come dire, abbastanza stabile, ma insomma oggi la Roma molto meglio rispetto all'Arsenal. Però ripeto, oggi manca un mese, quindi. quasi un mese, ma diciamo un mese che fa media tra andata e ritorno. Certo. Grazie Fabio. A te Gigi, buongiorno a tutti. Chiudiamo questo collegamento con Sky Sport 24, con Fabio Tavelli. Ho letto con grande interesse e piacere stamane sulla Gazzetta un'intervista di Paolo Condò ad Allegri e da due o tre frasi di Allegri credo aver capito, in parte, perché il Cagliari stia giocando così bene e perché questo suo debutto in panchina ad alto livello stia avendo, per il momento almeno, esiti così felici. Domanda, per esempio, un concetto del suo modo di intendere il calcio. Risposta di Allegri: assumersi una responsabilità. Il giocatore può fare il compitino, limitandosi a eseguire il suo incarico, oppure interpretarlo con qualcosa che gli bruci dentro. Il desiderio di una giocata, un'idea alternativa. I miei sono ragazzi coraggiosi, non hanno paura della brutta figura del 5 sulla Gazzetta. Quando arriva il momento si prendono la loro responsabilità. Il segreto del decollo è questo. Noto en passant che anche le pubbliche relazioni non dispiacciono ad Allegri, visto il riferimento a quel 5 in pagella della Gazzetta, no? Probabilmente se l'intervista era Corriere dello Sport sarebbe stato il 5 in pagella sul Corriere il rischio, ma insomma il concetto mi sembra, da parte le battute, il concetto mi sembra molto, molto felice. Domanda ulteriore: l'Italia si è accorta di lei il giorno di Inter-Cagliari? Risposta: ad un certo punto Mourinho mi manda contro 5 punte, se io mi chiudo in difesa mi squarta, il più piccino di loro è alto 1,98 m, piccino alla Livornese ovviamente, perché Livornese è Allegri, è alto 1,98 m, dico alla squadra: se davanti sono in tanti vuol dire che dietro sono pochini, dunque si va all'attacco. Il rimpianto non è il pari che abbiamo subito, quello è normale, il rimpianto è non aver vinto 3-1 come avremmo dovuto, perché gli spazi intasati sono il territorio del campione, quello che in un metro quadrato fa le cose incredibili. Gli spazi larghi invece sono il territorio del tecnico, perché ci puoi disegnare lo schema che ti può portare ad ama. Bellissimo, mi sembra. Poi magari continuiamo ancora. Alberto da Lucca, buongiorno. Buongiorno Garanzini, io volevo intervenire sulla prova televisiva, un'anomalia, sì. Credo che se noi vediamo spesso un arbitro come gestisce la prova televisiva, spesso si vede che l'arbitro ammonisce o talvolta fa un richiamo verbale quando vede proprio l'episodio, se l'arbitro vede i casi di Totti o Mexes mercoledì scorso, se l'arbitro vede interviene e a volte ammonisce, a volte può anche espellere, ma spesso ammonisce oppure fa un richiamo verbale. Se l'arbitro non vede, automaticamente interviene la prova televisiva, che squalifica minimo 3 giornate, che è molto più severo. Come? che è molto più severa in effetti. Sì, sì, allora io mi chiedo, è normale che per una svista, perché a questo punto può essere anche una svista arbitrale, ci sono, c'è un arbitro, c'è un quarto uomo, ci sono però Alberto, Alberto, mi scusi, la sanzione diventa molto più severa perché c'è il mancato danno che non è stato sanzionato durante la partita, cioè Adriano viene espulso a quel punto. Ma mi chiedo, allora mercoledì scorso Mexia è stata rifiutata un calcione da dietro a Ibrahimovic. No, un calcione da dietro è un fallo di gioco, abbia pazienza, è un fallo di gioco che si vede sempre, può essere dato o non dato, può essere sanzionato o non sanzionato, l'altro ha reagito, poteva fare un rosso e un giallo, un rosso e un rosso, un giallo e un giallo come ha fatto. Questa è un'altra situazione di gioco. Un cazzotto per divincolarsi non è la stessa cosa, o no? No, ma io non voglio difendere assolutamente Adriano, su questo secondo me le merita, però ragionavo un attimo sul normale che un errore di tutta una terra arbitrale possa venire pagato poi per tre giornate da un giocatore, perché nessuno ha visto, cioè se nessuno vede dove guardano. Mi chiedo quello. Ci sono delle sequenze che non è facile seguire. Io credo che soltanto l'occhio della telecamera poteva cogliere quel tipo di scorrettezza. Anche secondo me è stato sanzionato in maniera severa. Io mi fermavo a due, fossi stato io, però non siamo né io né lei il giudice sportivo. Probabilmente la sanzione è aggravata da una serie di circostanze. Dal fatto, per esempio, che come abbiamo visto Adriano è recidivo, perché è la terza volta che lo cuccano a fare qualcosa di scorretto in campo. E questo potrebbe essere una delle motivazioni, può darsi che serva poi ad accogliere in parte almeno il ricorso, che tra l'altro stanno credo esaminando in queste ore, perché giocandosi, poiché si gioca domani, anche il ricorso viene esaminato dentro la giornata di oggi. Da Vicenza, Salvatore, buongiorno. Buongiorno Garancini. Una constatazione e una proposta. La constatazione: secondo me gli arbitri italiani sono i migliori del mondo, salvo quando arbitrano una partita di una grande contro una medio piccola. Spiego subito. Non è nemmeno a spiegare. No, perché in campo internazionale, leggendo anche i giornali, quando gli arbitri erano fuori, tanto è vero, anche Rosetti ha fatto la finale europea, insomma, con l'Inter l'abbiamo visto. Quindi quando vanno fuori arbitrano benissimo. Quando, per esempio, Inter-Juventus, Inter-Milan, Juventus-Milan sono perfetti, non sbagliano mai. Sbagliano quando c'è una grande con una media, quella si diventa psicologico. Uno, per non far creare questa pressione agli arbitri, la proposta mia sarebbe: ma perché non si fanno i playoff? Così gli arbitri, secondo me, sapendo che sono i playoff, comunque le prime otto che si qualificano per le fasi finali, sarebbero un po' più tranquilli e quindi meno errori. Grazie, ascolto per telefono. Beh, Salvatore, però poi chi li arbitra i playoff? Ecco. Abbia pazienza, cosa facciamo? Rimandiamo, in altre parole, no? Chi chiamiamo poi a dirigere i playoff, che a quel punto valgono anche di più? No, io non direi. Mi sembra che abbia molto incuriosito la vicenda di Savio, così ben raccontata prima da Tavelli, al punto che Aldo Marinoni da Como scrive: non so se far intervenire il signor Tavelli vi costi molto, ma se fosse gratis fatelo spesso. Non mi faccia rispondere Aldo, perché c'è la legge sulla privacy, insomma, già noi le cose qua le mettiamo abbastanza in piazza, adesso vediamo di non esagerare troppo. Comunque Fabio mi sembra che intervenga abbastanza spesso, poi se per il piacere non soltanto suo, possiamo anche vedere di farlo intervenire più sovente ancora. Due interventi, dicevo. Ma se Savio fosse stato all'Atalanta, siete sicuro che Nani l'avrebbe valutato 8 milioni e mezzo di euro? Domanda Piero, ed è una domanda legittima, ma è anche vero che Stefano da Brescia non risponde a lui, ma insomma scrive un altro messaggio e dice: con Savio Corioni rischia l'errore commesso con Hamsik, venduto a 5 milioni e mezzo al Napoli e ora ne vale il quadruplo. Io direi che ieri ne valeva il quadruplo. Insomma, mi sembra che Hamsik stia un po' giovanissimo, per l'amor di Dio, è grande giocatore, però che abbia qualche segnale sia caratterialmente che insomma, che da altri punti di vista qualche segnale di riflessione, ma questo ovviamente è episodico. Comunque, ammesso e non concesso che Hamsik fosse stato svenduto a 5 milioni e mezzo, che si può discutere, beh, 8 e mezzo è già un'altra cifra e questo ragazzo ha fatto giusto qualche uscita in B al momento. Tocca a Michele da Modena, buongiorno. Salve Garanzini, grazie per l'opportunità. E allora, io chiedevo, siccome non vedo soluzioni al momento, no? Questa benedetta moviola in campo, o si mette la moviola in campo, oppure la si toglie anche dalla televisione, secondo me. Credo che sia quella la soluzione, poi non lo so. Terzi un non datur, no, ma io sono d'accordo con lei, o meglio, io sono d'accordo di levarla anche dalla televisione e non da oggi, e di farla diventare soltanto uno strumento di curiosità in cui ci sia parità di trattamento per gli errori arbitrali e per gli sfondoni sia degli allenatori che sia dei giocatori che dei tecnici. Però altri la pensa diversamente, ben più autorevoli, per esempio proprio stamane Cobolli Gigli ha detto: da neofita del calcio mi sono fatto un'idea, una moviola in campo usata con intelligenza potrebbe servire, anche se faccio parte di una minoranza ritengo che i supporti tecnici possano aiutare. Quindi vede che la schiera dei fautori, più o meno accaniti, più o meno tiepidi, in compenso si sta infoltendo. Scrive una tifosa interista che tra l'altro scrive non per la prima volta, ed è una signora pisana che si chiama Laura Aliberti e che ha un ruolo importante all'Università Pisana. Scrive: da interista non l'avrei mai creduto, ma Don Cosè, che non fa la ruota, è decisamente peggio di quando la faceva. La presunzione di questa persona è patologica e offensiva. Sono ancora basita da come ha trattato i suoi difensori a Bergamo, facendo finta di assumersi la colpa e offendendoli. Se la prende con giocatori bambini e veterani di lungo corso, indistintamente. In genere la loro colpa è non aver eseguito esattamente le consegne, crede forse di fare il coreografo. Esauriti questi, a me è passato all'arbitro, manda in campo formazioni quantomeno discutibili e continua a lamentarsi di aver troppi giocatori, che sia la scelta a mandarlo in confusione. In ogni caso, né le domande dei gossipari travestiti dai giornalisti, né qualsiasi cosa accade sul campo giustifica la cafonaggine e il livore che sta elargendo a piene mani. Secondo lei c'è qualche speranza che perdendo l'impossibile si tolga dai piedi? Saluto caramente e vado a sognarmi Ancelotti. Non sembra davvero la lettera di una tifosa interista, o meglio, sembra la lettera di una tifosa interista di quelli che una volta avevano la maggioranza, cioè che erano gli ipercritici, e in questo caso con il valore aggiunto evidentemente di un gusto estetico oltre che una discreta competenza calcistica. Tocca a Riccardo da Treviso, buongiorno. Buongiorno Garanzini, intanto dica. Complimenti per la trasmissione. Grazie. E per la sua professionalità. Io sono un tifoso juventino, però sì. Cerco di reputarmi anche sportivo, anche se non è facile, perché sport e politica si prova. Non si è mai ci si prova, ma dopo il tifo viene sempre fuori. No, io concordo con quanto ha sempre detto lei su Mozzi, non è che mi vergogni, però bisogna essere anche un po' lucidi nel vedere quello che succede nel mondo del calcio come nella politica, e quindi essere un attimino anche super parte, se quindi condivido appieno quello che lei ha detto. Ma la chiamavo non tanto solo per questo, ma per farle anche una proposta, le avranno già fatto i milioni. Siccome lei aveva Sky, vedevo la sua bella trasmissione all'una di notte, mezzanotte, con salami, con vini, noi siamo la marca gioiosa, quindi voglio dire, giocavo in casa anche se ero davanti alla TV. Ho sempre pensato che l'educazione dello sport fosse anche però rivolta, cioè fosse anche spontanea, fosse davanti a tante persone. Ha mai pensato lei di organizzare delle serate nei teatri, adesso non so dove, e parlare con gente del luogo? Noi a Treviso abbiamo Del Piero, abbiamo i Radice, a Treviso allenava Radice, allenava anche Rocco un anno, non lo dite mai, ma c'era anche Rocco. Di più di un anno. E parlare tutti di queste cose, perché secondo me la gente dovrebbe anche toccare con mano e soprattutto sentire parlare delle persone che hanno lavorato nello sport e che hanno Riccardo, io qualcosa da dire. La ringrazio di questo enorme complimento, sinceramente non ci ho mai pensato, in tutta sincerità, quello di mettere insieme un carro di Tespi, no? se non capisco male, un carro di Tespi e girare l'Italia cercando... Però mi domando cercando cosa, tanto non di lunedì, perché sennò come fa il pubblico a vedere le TV private di cui parlavo prima e a gustarsi le risse vere o artificiose, artificiali che siano. Ho qualche dubbio, qualche scetticismo, e le dirò anche che nemmeno quel programma di Sky era poi questa meraviglia, perché c'erano quasi tutte le persone giuste per poterlo fare, ma non c'era la cultura all'interno di Sky per poter fare qualcosa di più serio. Le ultime da Trigoria adesso. Contro il Palermo, Totti, dice Spalletti, partirà titolare. Panucci no, non verrà convocato. Questa è una scelta presa di comune accordo con la società. Il rispetto Christian lo riconosce solo se gli dai una maglia da titolare. Domenica il rispetto lo ha tolto a me e alla squadra non andando a sedersi in panchina dove c'erano giocatori e compagni del calibro di Aquilani, Totti e Perrotta. Io credo che questa frase di Spalletti valga un applauso a scena aperta, perché sarebbe forse il caso di cominciare a insegnare un pochino di educazione, no? a questi fenomeni invece della maleducazione e della presunzione, che per l'appunto credono di non poter andarsi a sedere dove erano già seduti Totti, Aquilani e Perrotta. Bravo Spalletti. Sembra ieri ripasso di storia, come sempre. 27 gennaio, la storia con la S maiuscola sa bene che cosa ripassare, infatti lo sta facendo in questa giornata. La nostra storia con la S minuscola invece è quella sportiva. Sentiamo Nicola. Sembra ieri. 27 gennaio 1984. A New York, Carl Lewis fissa il nuovo primato di salto in lungo indoor, portandolo a 8,79 m. Migliora così di 23 cm il precedente record, da lui stesso stabilito 2 anni prima. Il primato mondiale di salto in lungo indoor di Carl Lewis non sarà mai più battuto e rappresenta tuttora uno dei più longevi nella storia dell'atletica. Il 1984 sarà per Lewis un anno magico, che culminerà nell'esploit olimpico. Ai Giochi di Los Angeles, il figlio del vento conquisterà 4 medaglie, ripetendo l'impresa riuscita a Jesse Owens nel 1936 a Berlino. Garanzini, che noioso, scrive un ascoltatore, che non si firma, è combinazione. Per fortuna Mourinho esiste, altrimenti lei con chi se la prenderebbe? Beh, guardi, non ho che l'imbarazzo della scelta se è per questo, ma mi pare che in un momento del genere Mourinho stia veramente superando se stesso. E comunque non sono io, siete voi, o meglio qualcuno di voi. Ho invitato sin dall'inizio dell'appuntamento ho sollecitato qualche intervento a favore di Mourinho, proprio perché c'era qui una sfilza di messaggi non particolarmente teneri nei suoi confronti. Questo è firmato Simone Brisotto, mi ha colpito perché apre le virgolette, cioè, o meglio, dice: le vorrei sottoporre questo virgolettato di Mourinho che ho letto stamane sui giornali. Virgolette: mi sembrava che l'arbitro fischiasse molto contro di noi, questa è la spiegazione che ha dato ieri Mourinho, abbiamo sentito noi stessi. Forse era sotto pressione dopo Juve Fiorentina, voleva dimostrare che lui non aiuta le big. Gli ho detto che aveva paura e espellendomi me ne ha dato conferma. Chiuse le virgolette. L'ascoltatore, Simone Brisotto, ripeto, dice a questo punto: mi potrebbe decifrare quest'ultimo passaggio? Cioè, l'arbitro ha paura di chi? E quindi espelle Mourinho. Ma per paura di chi? Dello stesso Mourinho o di chi altro? Ma soprattutto, vale la pena di cercare di capire questa passeggiata sugli specchi? Non è che la logica di questo discorso sia: parliamo di qualsiasi roba, ma distraiamo l'attenzione dalle figure barbine che la mia squadra sta facendo da un mese a questa parte, visto come la sto facendo giocare? Ma nessuno si accorge che questo non è il grande comunicatore che dicono, ma un grande agitatore di fumo? Questo è un intervento di un ascoltatore, non è che poi io lo condivida o meno, io lo condivido, ma sono prontissimo a ad ospitare invece degli interventi a favore in cui Mourinho si è visto ad un'altra angolazione. Mamadou da Ferrara, buongiorno. Buongiorno signor Garanzini. Dica. Intanto ringrazio per lo spazio che mi ha dedicato. Io sono un tifoso dell'Inter, è un ammiratore di Balotelli, però condivido l'atteggiamento di Mourinho nei confronti di Balotelli, perché in una squadra di 29 giocatori, dove ci sono Crespo, Cruz e tanti altri giocatori, Balotelli per guadagnare il posto deve impegnarsi. E un'altra cosa, volevo chiedere anche, volevo avere una risposta da lei, l'Inter che si aspetta dall'inizio del campionato, quando mai verrà? Sarà capace di fare un risultato col Manchester United? Grazie, ascolto con la radio. Beh, insomma, quella di oggi potrebbe battersi, ma si batterebbe certamente con molto coraggio, e poi, come è noto, il calcio ci ha abituato a sorprese di ogni genere. Diciamo che non avrebbe moltissime chance, soprattutto sulla doppia giornata, sull'andata e ritorno. La partita secca potrebbe essere diversa, ma come diceva prima Fabio Tavelli, Manca un mese. Anche il giaccone lanciato in aria del Piero, scrive Luciano da Biella, non è stato un bel gesto al pari di Panucci. No, no, Luciano, non facciamo confusione. È stato un brutto gesto, certamente, ma prima ha giocato tutta la partita. Ha mancato di rispetto a Ranieri, non ai suoi compagni. Uno che rifiuta la panchina manca di rispetto all'allenatore, ai compagni e alla società. Nel caso di Panucci è recidivo. A me spiace perché Panucci è un signor giocatore che invecchiando è molto migliorato, perché sembrava avesse smarrito il suo limite vero, che è sempre stata la presunzione anche in campo, e invece ogni tanto quella salta fuori. Un ascoltatore, anzi un'ascoltatrice particolarmente autorevole tra l'altro, ma che mi prega però di non essere citata in trasmissione, mi fa presente che 3 giornate costituiscono la sanzione minima per gli atti di violenza, cioè per la sanzione da prova televisiva dovuta ad atti di violenza, e questo è anche vero in effetti, perché le precedenti sanzioni che aveva riportato Adriano sempre per 2 giornate si riferivano a episodi di natura diversa. Vabbè, poi c'è qualcuno invece che parla di questo caro, che sviluppa l'idea di questo caro Litespi che potrebbe il lunedì sera girare per l'Italia e per le piazze a cercare di riportare il calcio entro certi limiti, ma insomma è una cosa suggestiva, ma che non credo possa avere un grande futuro. Paolo e Marco che scrivete, grazie. Riccardo da Pisa, buongiorno. Riccardo, buongiorno. Riccardo non è particolarmente vicino al telefono. Giovanni, provincia di Torino, buongiorno. Buongiorno. Dica. Senta, io volevo fare una domanda su quello che potrebbe succedere nei prossimi mesi, legato al fatto che la Juventus è la squadra che utilizza il fuorigioco più di tutti. Sì. È noto che questo porta tanto nervosismo soprattutto agli attaccanti e tanta pressione sia al guardalinee che agli altri. Visto che se rimangono così le cose, io lo spero da juventino, si giocherà domenica su domenica con le squadre tra Juve, Inter e Milan molto vicine. Questo nervosismo sia negli attaccanti che protestano spesso, sia quando c'è il fuorigioco, che sia giusto o non sia giusto, e gli arbitri che comunque avranno sempre più pressione, perché vedo che i mass media cominciano a puntare su errori e via dicendo. Questo potrebbe incidere sulla fine del campionato? Attendo lì la risposta. Ha pronunciato con la cadenza torinese la domanda finale, è meravigliosa. No, non credo, non ha inciso fino adesso e non inciderà nemmeno dopo. La Juventus fa un fuorigioco coraggiosissimo, giustamente, perché giocando sulla linea e giocando ripartendo collettivamente questo incarico difensivo, questa competenza difensiva, scarica ciascun individualità da una parte di responsabilità, perché tolto Chiellini non siamo messi benissimo rispetto alle altre squadre, quindi lo fa molto ma molto bene. Continuerà a rischiare, dipenderà dalla sua freschezza nel continuare ad applicarla bene. C'era un allarmismo sotto traccia che, sia pur molto espresso con grande signorilità, Mi ricordava un tantinello tutto sport, non si offenda. Mi spiace per gli altri ascoltatori già in attesa, ma abbiamo finito anche oggi. Ricominciamo come nulla fosse domani. Grazie a Peter Bescapè in regia, a Flavio Suardi in redazione, Giornale Radio.